America, America. Il mito di povera gente, palestra che insegna la vita, romantica quasi sperduta, risposte nessuno si dà. America, America. Teatro di storie di vita, la gente che muore per strada, nessuno si china a guardare, i morti rimangono là. Eppure tu sei la terra che, nella logica del fine, ogni uomo trova là la libertà. Sì? Oh. Però, chissà, se in America la pace ci sarà. Petrolio, quando finirà? America, America. Le torri gemelle crollate, vendetta chiamata per nome, un popolo onora la morte, tu segui la stessa sua sorte. America, America. Le bombe non fanno la pace, ma uomini vestono bombe, commenti viziate dall'odio, un odio che morte ti dà. Eppure tu sei la terra che, nella logica del fine, ogni uomo trova la guerra ci sarà. Sì, ma però chissà, il petrolio quando finirà?